One, two, three, four. Oh, yeah! You know, baby, che sono come te. Sono nichelino, sono tutto nero. Eh sì, baby, io sono come te. Sono come te. Baby, baby, baby, ho dovuto ritrattare tutte le mie concezioni su di te, perché ero diverso e sono ancora qui. Baby, baby, baby, baby, io sono sempre sì, sono sempre Michele, ma ora sono nero. Oh!